storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera. Buonasera a voi tutti da parte di Gesi e di Antonio. Oh, caro Antonio, mamma mia, siamo già in dicembre. Tempus fugit, come dicevano un tempo. Certo. E incominciamo ad avvicinarci al Santo Natale. Oh, che bello. Beh, ma pensa che le vetrine qui ormai sarà un mese che sono illuminate, sì, quindi sì, pensa sempre. Un po'. Vabbè, voi... Allora continuiamo con le nostre, naturalmente i nostri parametri. Buonasera e benvenuti alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, proposte e suggerimenti il nostro numero di telefono è il 346 23 20 033. Esiste naturalmente la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download, cioè scaricare su PC i nostri incontri. Un cordiale saluto al nostro regista e naturalmente questa sera abbiamo un ospite virtuale che è il dottor Vittorio Ingegneri, direttore del giornale Quattro Ciacoe di Padova. Pensa che onore abbiamo stasera. Comunque noi aspettiamo sì le vostre critiche, l'importante è che siano critiche costruttive, vero Antonio? Naturalmente. Ecco, perché critiche così tanto per farle non le vogliamo nella maniera più assoluta. Benissimo, allora prima di introdurre telefonicamente il dottor Vittorio Ingegneri, ci ascoltiamo la solita canzoncina dedicata alla città. Stasera parleremo di Padova, quindi ci ascolteremo una canzone cantata da Umberto Marcato, El Porteo. Oh Porteo, me caro Porteo, sul me corte si sempre resta. Me ricordo cogero Puteo, quante volte partigo ciapà, co facevo il teatro alle tose, destirai tutte quante partera, come un re comandavo e a guerra, e ogni tosa volevo basar. Porteo benedetto, vent'anni se passai, siamo più tosi, un co se fai morosi, domani se diremo di sì. O Porteo, me caro Porteo, ogni sera te vengo a trovar, chiese ancora dati un bal consejo, pien de fiori che fa innamorar. Quando sento suonare la chitarra, il mio sogno d'amore segueo, niente al mondo parmise più bello de quei cari balconi infiorar. Porteo benedetto, vent'anni se passai, però se more stai, compagni de quei dì, no femo più il teatro, perché no semo più tosi, un co se fai morosi, doman se diremo de sì. Sempre ti. Eccoci di nuovo in studio e adesso fra un momento avremo al telefono il signor Vittorio Ingegneri, che prima ho sbagliato, ho detto direttore, invece è il presidente del giornale Le Quattro Ciacque. Pronto? Perfetto. Buonasera. Buonasera. È veramente per noi è un gran piacere averla in trasmissione, anche se è solo virtualmente. Le presento il collega Antonio. Buonasera Vittorio. Buonasera a lei. Ecco, allora noi una volta al mese parliamo di Padova, una volta di Venezia, una volta di Treviso, e stasera sarebbe proprio la serata di Padova. Quindi siamo in dicembre, per cui non so, vorremmo che lei ci spiegasse un pochino come vivete il dicembre, come vivete l'anti-Natale, ecco, il periodo che precede il Natale. La tradizione più antica, se vogliamo, spaziare diciamo in ambito pre-natalizio. Sì. E la famosa ciarastella che ancora i ragazzi dei vari patronati si organizzano e la settimana, i 10 giorni prima di Natale suonano i campanelli delle case con una stella illuminata e cantano delle canzoncine natalizie, insomma. Ecco. E questo quando avviene? Qua, non so, 10 giorni prima? Sì, una settimana, 10 giorni prima di Natale. Durante la novena, ecco, diciamo, di Natale. Sì, ecco. Sì. E questa è una delle tradizioni campanili. È una delle tradizioni che ancora resiste e che non si è ancora smantellata, diciamo. Poi c'era un'altra tradizione che questa ancora, forse in città non più, ma nei paesi circostanti qua il capoluogo ancora si usa la vigilia di Natale e la cena della vigilia è famosa con bigoli in salsa e polenta e bacà. Ah. Questa è una tradizione che ancora in certe famiglie si usa a preparare questo menù. Certo, una cenetta molto leggera. Non certo per stomaci di una certa età come la nostra. Comunque, polenta e baccalà è sempre buono però. Polenta e baccalà. Sì, anche i bigoli in salsa. E da noi li fanno, anche qui più o meno fanno queste cose qua. E poi altre tradizioni che... Tradizioni proprio specifiche, direi che... non ce ne sono proprio, almeno che ricordi io, insomma, se no bisognerebbe andare indietro molto nel tempo, ma ormai la vita moderna, diciamo, ha abbandonato quelle che erano le radici della civiltà contadina. Ma siccome sono curiosa, mi piacerebbe così, se lei ci ricorda qualcosa, sapere che com'erano le tradizioni, non so, 50 anni fa. 50 anni fa, per esempio, c'erano dei famosi detti che navigavano nelle case. Per esempio, ne posso citare uno. In famiglia, gesè pase, quando la gallina canta, è il gallo tase. Beh sì, è abbastanza allusivo, insomma. È vero, sì sì. E poi se no un'altra simpatica è questa, per essere vardà bisogna andare a messa sconsiata. Ah sì, perché quando tu entri è vero, ecco. Antonio, se si entra in ritardo tutti ti guardano, magari ti criticano poi anche, no? Ecco. Per esempio, andando indietro di 50 anni, noi troviamo ancora imperante la cosiddetta famiglia patriarcale. Ecco. Col vecchio nonno. Sì, con il nonno padre padrone, naturalmente con figli sposati in casa, con le nuore e magari qualche puta da sposare, cioè vitella in casa che spadroneggiava, capisce, comandava lei perché era la figlia del padrone, per cui la delegava andare a fare gli acquisti, vestire i nipotini, magari arrangiandosi a far su i pantaloni in casa, fare i maglioni con i ferri. Sì, da calza, sì, certo. Per risparmiare. Certo. Ecco. Però questo è, diciamo, uno spaccato di vita che ormai che non usa più. Sì, non si usa più, insomma, fortunatamente, diciamo. Non è detto che non possa rientrare eventualmente visti i tempi, no? Poi, per esempio, il giorno di Natale, che usanze avete? Che usanze hanno nella campagna? Che cosa mangiano? Beh, il pranzo di Natale è un pranzo, diciamo, molto ricco, ecco. Di solito c'è il cappone, magari allevato ancora nelle famiglie contadine, sempre rivolgendosi alla campagna, e questo si usa ancora, il famoso cappone, la bondiola, perché da novembre in poi ancora in famiglia uccidono il maiale, per cui fanno sui salami, e per Natale mangiano la bondiola, che è, a volte mettono anche dentro la lingua del maiale nella bondiola, che va, diciamo, l'impasto è di cotechino, cioè di cotiche e carne, e viene servita assieme al cappone bollito. Ma cos'è, una specie di zampone, no? No, sì, oddio, potrebbe essere anche lo zampone, ma da noi lo zampone si usa poco anche in campagna. Usavano più questa bondiola, che sarebbe la vescica del maiale riempita di carne, di impasto di carne e cotiche, lo stesso impasto che si usa per fare il musetto, insomma, il cosiddetto musetto. Okay, comunque, io pensavo che la bondiola fosse un salame, una cosa romagnola più che paduana. No, io ho usato un termine bondiola, ma in dialetto nostro, diciamo, la chiamiamo bondola proprio. Ho capito. Senta, signor Vittorio, lei può restare in linea intanto che faccio ascoltare una canzoncina, che poi riprendiamo il discorso? Sì. A tempo, le dispiace? Sì, ecco, allora noi adesso ci ascoltiamo un'altra canzone, cantata da Mina, ed è Grande, Grande, Grande. Con te dovrò combattere, non ti si può abbigliare come sei, i tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu, sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro, in un attimo tu sei grande, grande, grande, le mie pene non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Eccoci di nuovo in studio ancora col nostro signor Vittorio Ingegneri. Allora, signor Vittorio, io ho letto così, della, così qualcosa sul, sulla gallina padovana. Sì? Lei mi sa così dire qualcosa? Allora, io ho scritto diverse cosette sulla gallina padovana. Mm. Allora, innanzitutto la gallina padovana proviene dalla Polonia. È stata importata intorno al 1600 da Dondi dall'orologio. È un soggetto piumato con il ciuffo. Il ciuffo che parte da una malformazione cranica, proprio tipico della razza, che copre addirittura gli occhi dell'animale. Come la Tanto è vero che lei muove in continuazione la testa per poter vedere e beccare qualcosa. È un soggetto molto difficile da allevare perché ha bisogno di un suo habitat particolare. È un soggetto che predilige l'ambiente rurale tipico e quindi non in batteria, non in, come si dice, allevato in gabbie o qualcosa di simile. E ha bisogno di cibarsi, sì, di grano turco, possibilmente spezzato, ma anche di vermetti che trova lungo i fossati, che trova sotto le siepi, e preferisce depositare le uova proprio in un nido, non nel pollaio, non nel cesto che può preparare la donna di casa, diciamo la massaia. E lei preferisce depositare le sue uova in un cantoncino nascosto, magari dietro un cespuglio o sotto una siepe, e poi andare a covarsi le sue uova. Ma ha un sapore particolare questa gallina? Intanto si distingue dal colore della carne. La carne sua è una carne morata, sì. Quindi ancora più scura di quella della faraona. No. Ed ha un sapore stupendo, unico, suo, tipico. Diciamo che non supera il chilo e due. Ah, piccolina proprio. È un animale piccolino. Tanto è vero che si stava perdendo la razza perché la ristorazione non la trova, diciamo, competitiva sul mercato, avendo bisogno di essere allevata nel modo in cui le ho detto. Sì, certo. Hai capito? E la usano ancora molto in campagna? E direi le famiglie la usano per conto proprio. Ho capito che quindi è difficile trovarla in commercio. E c'è qualche ristorante, ma naturalmente poi il conto sale. Va su. Però chiedo scusa, però mi pare che anche dal punto di vista delle galline ovaiole, eccetera, le stesse direttive della Comunità Europea vadano nella direzione di non più polli in batteria, non più diciamo costrizione in gabbie, eccetera, ma verso di nuovo una vita ruspante per questi pennuti. Sì. Quindi diciamo che questi sono dei precursori di una, di una salubrità, diciamo, se vogliamo. Sì. E naturalmente chi ha la fortuna, e io sono uno di quelli che ha avuto che ha la possibilità di gustarsi la gallina padovana, e pensi che un amico veneto emigrato in Venezuela è rientrato, siamo amici, e mi ha detto: procurami la gallina padovana, perché si è comperato una casetta qui in periferia, e una casa di campagna, e lui quando può viene in Italia, ha una sorella che abita in questa casa, e insomma ha fatto un allevamento di gallina padovana, e la moglie una sera ci ha preparato una cena a base di gallina padovana. L'abbiamo assaggiata bollita, l'abbiamo assaggiata arrosta e l'abbiamo assaggiata in umido. Ah, in tre modi diversi. Ecco, e in umido è il piatto migliore, almeno per me, con polentina e patate in umido. Guardi, è saltato fuori un piatto stupendo. E con che vino avete annaffiato? Ben, qua con un buon Cabernet, qua un Cabernet della zona. Ci vuole un vino un po' robusto. Ma sì, generalmente la gallina padovana la fate in brodo, insomma, cucite? Sì, di solito la sua morte è in brodo. Però questa signora, questa amica, ha voluto, diciamo, anche per sua curiosità, perché era la prima volta che la faceva in questi tre modi, e ci ha invitato appunto per così ricambiare il favore che le ho fatto, per aver accompagnato il marito all'Istituto Duca degli Abruzzi, Istituto Agrario Duca degli Abruzzi, dove è ancora possibile trovare queste varietà. Per esempio c'è anche un altro piumato che assomiglia alla gallina padovana, ed è la gallina di Polverara. Ah sì, ho letto, sì. La gallina di Polverara, che ha alcune caratteristiche per distinguersi dalla padovana. Per esempio, la gallina padovana ha gli speroni gialli, mentre la gallina di Polverara? Polverara li ha verdi. Ma guarda. Verdi, sì. Poi i piumaggi, la gallina di Polverara è o nera o bianca o smacchiuzzata di bianco e nero, mentre la gallina padovana ha dei piumaggi stupendi. Prova ne sia che il famoso Dondi di cui ho parlato, sì, prima, l'ha portata in Italia come animale da ornamento. Per esempio, se lei vede le dorate o le camosciate, sono dei bomboni da vedere. Ah sì, perché hanno dei colori stupendi. Ecco. Quindi sono proprio da ornamento anche. Sì, sì, sì. L'ha importata proprio come animale da ornamento per il suo parco. Ho capito. Che dopo l'abbia messa in pentola. Beh, insomma, dopo... Intanto... E ecco, come ultima per oggi, stasera, per ultima cosa volevo chiederle... oltre il panettone, come abbiamo tutti, qual è il dolce tipico vostro per le feste? La faccio ridere? Sì? La fugassa puttana. Oh, oh, perché? Che cos'ha? La fugassa, cioè una focaccia che veniva fatta nelle famiglie contadine. E perché sto termine? Perché mettevano dentro di tutto, i cosiddetti avanzi. In pratica si faceva con il pane raffermo bagnato nel latte, poi si impastava con uova, zucchero e si aggiungevano fichi secchi, pinnoli, uvetta passa, addirittura mettevano anche un po' di patata americana. Mamma mia. Veniva fuori sta torta, diciamo, sto impasto, e cotta al forno. Leggero, naturalmente. Non era affatto pesante. Niente? No. Nonostante gli ingredienti. Non era affatto pesante, uh-huh. No. E ci mettevano anche un po' di strutto. Ah, beh, quello una volta usavano lo strutto, ma devo dire sì. Che è il miglior condimento che esiste. Ci mettevano lo strutto, non il burro, lo strutto. Da un sapore buonissimo. E usa ancora da voi? Sì, in certi posti si usa ancora. Anche qui a pochi chilometri da Padova, nella zona di Agna, Pegolotte, Candiana, anche nel Piovese si usano ancora. Capito. Bisogna che ci facciamo invitare a passare le feste di Natale a Padova, caro Antonio. Volentieri. Almeno assaggiamo un pochino le loro... Ma guardi, è simpaticissima, sa, questa fugassa. Sì, sì. E si fa ancora. Ma si fa solo per le feste, generalmente? Sì, solo per le feste. Ho capito. Bene, signori ingegneri Vittorio, io la ringrazio moltissimo. Ecco, siamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda. Io conduco questa rivista da 30 anni. Lei... E la portiamo in tutto il mondo, siamo orgogliosi. Lo so, la conosco. Di questa nostra iniziativa. Lo conosco. Comunque io spero che lei sarà ancora nostro ospite, vero? Volentieri, ecco. Sì. Se mi trovate disponibile, volentieri. Insomma, gli impegni non mancano. Pensi che l'8 dicembre organizzo un pranzo collettivo di tutti i corrispondenti della nostra rivista da tutto il Veneto. Bene. Chissà. Quindi siamo di solito dai 60 alle 80 persone. Ma noi l'avverteremo prima, per tempo, così lei si può organizzare. Perfetto. Bene, la ringraziamo. Grazie e la salutiamo. Grazie. E auguri per la vostra trasmissione. Grazie mille, tutti, grazie. Buonasera. Buonasera. Bene, ringraziamo ancora il signor Vittorio Ingegneri e procediamo con un'altra canzone che questa volta è intitolata, è un po' datata, ma non importa. Ultime foglie ed è cantata da Gino Latilla e Nilla Pizzi. Tristezza e parla per me. Come il mio pianto d'amore la pioggia vien giù, sembra che porti il dolore che c'è nel mio cuore. L'autunno fa cadere le ultime foglie che il vento raccoglie per te. L'autunno fa cadere l'ultime foglie che il vento raccoglie portandole a te. In ogni foglia gialla che t'accarezza c'è tanta tristezza che parla per me. Come il mio pianto d'amore la pioggia vien giù, sembra che porti il dolore che c'è nel mio cuore. L'autunno fa cadere l'ultime foglie che il vento raccoglie per te. Eccoci di nuovo in studio e adesso diamo la parola al nostro Antonio. Allora, niente, questa sera volevo intrattenervi su una curiosità praticamente su Padova, che è nota come la città dei tre senza. La scoperta dei tre senza comincia dal caffè senza porte, è uno dei simboli della città, situato in centro e cosiddetto sia perché fino al 1916 restava aperto anche di notte, sia per il porticato aperto che permetteva di attraversarlo liberamente. Recentemente il loggiato è stato chiuso, ma per preservarne le peculiarità originarie sono state utilizzate esclusivamente grandi vetrate. Nato nei primi anni dell'Ottocento, il caffè Pedrocchi divenne ben presto rinomato per essere l'unico luogo in cui chiunque poteva fermarsi a leggere libri o giornali senza obbligo di consumazione. La sua vicinanza con l'università ne fece il fulcro della vita culturale della città e il luogo d'incontro di studenti, letterati ed artisti. Sederci di fronte al buon caffè e sfogliare uno dei vecchi giornali messi a disposizione dai proprietari ci proietterà per un breve ma gradevole istante nel Rinascimento italiano. Poi ci dirigiamo verso la seconda ed affascinante tappa, il Prato della Valle, il Prato senza erba, cosiddetto perché in origine non vi cresceva erba ma solo alberi. Trovarsi a passeggiare per questa piazza in un giorno di sole regalerà una sensazione di pace ed armonia quasi impossibili da sperimentare in qualsiasi altra piazza. È la seconda piazza più grande d'Europa, ma ciò che la rende unica nel suo genere è la particolare combinazione di diversi elementi: il verde dell'isola che si trova al centro, l'azzurro del canale che la circonda e in cui si specchiano le 78 statue di autorità del passato, e l'equilibrio dei quattro vialetti che portano tutti al centro, ed infine i ponti che le conferiscono uno speciale tocco di romanticismo. Questo spazio svolse nel tempo diverse funzioni. Fu teatro, circo, luogo di combattimenti, sedi di fiere, giostre, mercati e persino cimitero. Oggi per i padovani rappresenta un punto di ritrovo, un luogo per passeggiare, studiare, distendersi sotto il sole o assistere a feste organizzate, ad esempio in occasione del Capodanno o del Ferragosto. La terza e doverosa fermata riguarda il santo senza nome, perché Sant'Antonio è per i padovani e per tutti semplicemente il santo. Il santo, vero. Grande è la devozione che lega gli abitanti al patrono della città e straordinaria è la Basilica di Sant'Antonio, conosciuta come appunto il Santo. Si trova anch'essa al centro della città e la sua struttura imponente è caratterizzata da una perfetta fusione di elementi romanici e gotici che le conferiscono una nota di unicità, rendendola inconfondibile agli occhi del visitatore che la trova di fronte a sé per la prima volta. Una visita all'interno della basilica permetterà di respirare un'atmosfera ricca di misticità, ma anche di piacevolissimo stupore nel momento in cui ci si troverà di fronte alle opere di artisti come Giotto, Mantegna e Donatello, i quali hanno concepito e lasciato qui, come in altri luoghi della città, diverse opere. Bello, bello, bello. Una bella, bella curiosità. Una bella curiosità proprio. Ascolta, cosa dice Antonio? Abbiamo anche dei poeti padovani. Che dici se leggiamo una poesia di un poeta padovano? Mi sembra doveroso. E io ho qui una poesia di un poeta che si chiama Walter Boldrin. Ed è Al vento mi affido. Vento, che disperdi le nuvole, che porti la pioggia, che culli i fiori. Conducimi per sempre con te. Io non ho casa, non ho un amore, e i miei sogni finiscono al mattino. Il tuo continuo andare mi darà piacere. Guidami nel mondo, parlami a lungo di tempi passati. Il tuo racconto darà pace al mio sonno. Se conosci un tempo e una terra dove felicità dimora, conducimi, o vento, perché là vorrei morire. Adesso ne leggo una corta, anche quella, che è intitolata Ad una donna. Quanto tempo è passato dall'ultimo bacio, dall'ultimo brivido che mi strinse il cuore. Ricordi di un altro tempo, in una casa lontana, una vita fa, eppure qualcosa di nuovo rinasce tra i misteri della solitudine. Un sorriso, una carezza, una donna che mi prende per mano e cammina al mio fianco senza chiedere nulla, amando il mio silenzio. I poeti hanno sempre una marcia in più. Vero? Sì. Straordinario. A me piace molto questo poeta, lo trovo un poeta molto sensibile, molto, che arriva proprio direttamente al cuore. Vuoi leggere un altro pezzettino prima della canzone? Certamente. Le tradizioni padovane. L'università e il santo sono sempre stati due punti di riferimento fondamentali per la città. Non stupisce quindi che le tradizioni più forti che ancora permangono in città facciano in qualche modo riferimento all'una o all'altro. Padova è uno dei pochi posti in Italia in cui la vita universitaria di ciascuno è ancora segnata non solo dalla personale evoluzione culturale, ma anche da precisi rituali che si riproducono dall'epoca medievale. Certo, non tutti gli studenti faranno parte delle confraternite goliardiche, i cui membri si possono notare nei giorni dei festeggiamenti per l'apertura dell'anno accademico, i primi giorni di novembre, o per celebrare i moti dell'8 febbraio, passeggiare tranquillamente per la città coperti dai mantelli o con in testa la tradizionale felucca, il copricapo di origine rinascimentale che così fu battezzato proprio dagli studenti padovani, nei colori della propria facoltà. Ma per tutti ci sarà il rituale del papiro, dell'alloro e degli sberleffi al conseguimento della laurea. I papiri sono dei grandi fogli di carta in cui gli amici ritraggono i laureandi e momenti salienti della loro vita in maniera caricaturale, con vignette e testi umoristici. Questi manifesti di cattiva condotta vengono appesi nei luoghi normalmente frequentati dalla vittima, che dovrà anche leggerne il contenuto ad alta voce, spesso con imbarazzo, durante i festeggiamenti. Si tratta di una tradizione tipicamente padovana e si rifà all'abitudine dei primi laureati di lasciare un ricordo del proprio passaggio in forma di stemma, come quelli che si possono ancora ammirare nel cortile vecchio del Palazzo del Bo. Oltre al papiro, gli ormai ex studenti devono anche sottoporsi a una serie di sberleffi pubblici. Dietro l'umorismo un po' greve, tipico della goliardia, emerge il chiaro messaggio che la laurea sia certamente un punto di partenza, non un traguardo. È un richiamo all'umiltà. L'8 febbraio l'università ricorda lo scoppio dei moti studenteschi del 1848 che portarono all'insurrezione cittadina contro l'Austria-Ungheria. Per ricordare la liberazione dei prigionieri politici dalle prigioni del Castello Carrarese, gli studenti universitari, normalmente le matricole, vanno a liberare gli studenti di alcune scuole superiori. Negli stessi giorni si celebrano anche con abbondanti libagioni e con gare tra gruppi goliardici le ferie matricolarum. ironiche e tramandate fin dai tempi delle lotte tra comuni, anche le filastrocche in rima sulla natura degli abitanti delle diverse città del nord-est. La più nota è certamente questa: veneziani gran signori, padovani gran dottori, visentini maniagati, veronesi tutti mati, udinesi castellani coi cognomi de Furlani, trevisani pan e tripe, rovigoti Bacco e Pipe, e Belun, pore Belun, tesse proprio de nessun. Di tutt'altra natura la tradizione legata al santo, che si concretizza in una grande processione cittadina che vede schierate non solo i fedeli, ma le rappresentanze delle antiche fraglie, cioè le corporazioni artigiane, a seguire la statua di Sant'Antonio il 13 giugno di ogni anno. In occasione della festa si allestisce anche, nelle zone adiacenti la Basilica e in Prato della Valle, la Fiera del Santo, il tradizionale mercato, e si chiudono le attrazioni del Luna Park, che ha allietato i bambini nelle settimane immediatamente precedenti. Sono belle ste tradizioni straordinarie. Queste, sì. Allora, questa qui va bene per il neo, per i laureandi, ecco, diciamo. Esattamente. Bene, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone e poi vediamo. Allora, la quarta canzone piace tanto a me ed è intitolata Incantesimo, cantata da Luciano Virgili. Eccoci di nuovo in studio. Adesso leggiamo l'oratorio di San Michele. L'oratorio è quasi sconosciuto, è il capolavoro dal giottesco Jacopo da Verona. L'edificio che vediamo oggi è quanto rimane dell'antica chiesa dedicata a San Michele e ai santi arcangeli, che ospitava anche altri affreschi di Jacopo da Verona. La cappella fu eretta a seguito dell'incendio del 1390. La sua collocazione è infatti a ridosso del Castelvecchio e fu teatro di scontri nel corso della riconquista di Padova ai Visconti, guidata dall'ultimo signore della città, Francesco II Novello da Carrara. Gli affreschi che decorano la cappella di Santa Maria della Chiesa di San Michele furono realizzati nel 1397 da Jacopo da Verona, forse con l'aiuto dei suoi due figli. Una lapide ancora in sito conferma la paternità di Jacopo da Verona ed è testimonia che la cappella fu voluta nel 1397 da Piero, figlio di Bartolomeo de Bovi, cugino di Piero di Bonaventura, ufficiale della zecca dei Carraresi. Dagli affreschi emerge la figura di un pittore ecclesiastico che oltre agli elementi derivati dalla formazione presso Altichiero, ne accoglie altri presi da Giotto. Allora, adesso se vuoi leggere tu qualcosa. Sì, un'ultima lettura. La Fiera di Padova, tra curiosità, storia e leggenda. Alla ricerca delle origini della Fiera di Padova si può correre indietro sino all'Alto Medioevo, alle fiere di San Prosdocimo e Santa Giustina, santi in voga a quell'epoca sino all'arrivo di Sant'Antonio nel 1232. Da qui, di dominazione in dominazione, la Fiera del Santo arriva indenne al 1919, guerre permettendo. Un salto qualitativo porterà la Fiera di Padova dal Prato della Valle ai capannoni di via Tommaseo, con una struttura e un'organizzazione stabili. Già nell'epoca più antica, con vie e mezzi di trasporto limitati, l'orizzonte della fiera guardava a nord-est. Questa vocazione di iniziativa di ampio respiro l'ha accompagnata fino ai giorni nostri e forse proprio perché stimolata da tante realtà vicine, la fiera padovana si è sempre distinta nelle iniziative originali, nelle novità. Nel secolo XVI la fiera si svolgeva nel piazzale della Basilica di Sant'Antonio. I reggitori decisero, con il permesso del Doge, di conglobare nello spazio fieristico tutta la superficie del Prato della Valle, un'area di ben 100.000 metri quadri, vasta come il quartiere attuale. Due secoli dopo, Andrea Memmo sistemava il Prato della Valle, costruendo un'originale struttura monumentale che viene integrata da 56 botteghe in legno smontabili, realizzate dall'architetto Domenico Cerato. Sono i primi conosciuti stand fieristici. Il 6 ottobre del 1775 si inaugurava la nuova Fiera del Santo. Per decreto del Senato Veneto è fiera franca, cioè non si pagano dazi e nelle botteghe sono esposte le merci più prestigiose. La formula è già quella di una fiera di oggi. L'Ottocento e i primi del Novecento vedono concentrarsi a Padova un discreto numero di iniziative. Nel 1846 nell'Orto Botanico si svolge la Esposizione di Piante e Fiori, organizzata dalla raffinata Società Promotrice del Giardinaggio. Non è il salone del florovivaismo dei giorni nostri, ma è pur sempre un passo importante. Altra formula innovativa per l'Italia è la Mostra Congresso, sperimentata a Padova nel 1900 con la Fiera Internazionale di Automobili ed Accessori, che vede le marche più importanti confrontarsi in questo ambito, tra queste Bugatti, Isotta Fraschini e Fiat. Bene, sì, qui nel capitolo che io ho letto anche qui adesso diceva che è molto in evidenza nelle scene dell'adorazione dei magi, cioè in questa chiesa è molto evidente appunto questa scena dell'adorazione dei magi e della Dormitio Virginis, ecco. Se no, anche come opera d'arte ce ne sono, sì, di straordinari, effettivamente. Però, appunto, dice che questo questo oratorio è abbastanza così dimenticato, non è molto... Sì, probabilmente nella scelta così straordinaria che c'è, qualcosa rimane un pochino in disparte. Meriterebbe chiaramente di una, anzi più visite evidentemente, un sì. Patrimonio straordinario. Comunque Padova ha tante chiese che varrà la pena soffermarsi e parlarne, perché ci sono la chiesa di Santa Giustina, ci sono tantissime cose, e lo faremo in seguito. Adesso un po' alla volta, un passo alla volta. Pensi che sia il caso di ascoltarci un'altra canzone? Certamente. Allora, vabbè, ci ascoltiamo Marisa Sannia in Una donna sola. Una donna sola, cosa vuoi che faccia? Quando la tua porta le si chiude in faccia, resta al buio, piange di malinconia, poi di corsa scenderà le scale e se ne andrà. Una donna sola, sembra una bambina, persa tra la gente. Se le manchi tu, una donna vive solo per amare, ed è bella solo se la guardi tu. Tientela vicino, un'altra non la troverai, bella come lei, innamorata come lei. Non la giudicar se la sua vita cambierà, per dimenticare tutto il male che le fai, che le fai. Una donna sola, come una bambina, prenderà la mano che si tenderà. Tientela vicino, un'altra non la troverai, bella come lei, innamorata come lei. Non la giudicar se la sua vita cambierà, per dimenticare tutto il male che le fai, che le fai. Una donna sola, sembra una bambina, persa tra la gente. Bene, allora ormai siamo quasi arrivati alla fine. Antonio, hai qualcosa ancora da leggere? Sì, qualcosa, diciamo che non c'era a Padova ed è sbarcata quest'anno la Fiera delle Parole 2011. Oh, che bello. Quindi il festival che non c'era, diciamo che Padova ha un po' approfittato di problematiche, diciamo, che hanno un pochettino assediato la precedente sede di Rovigo, per acquisire un festival importante, la Fiera delle Parole, dove praticamente sono arrivati grandi nomi della cultura. E parole, sembra un po' una contraddizione in termini, parole non come vaniloquio, non come chiacchiere eccetera, ma come meditazione. Quindi la città di Padova ha aperto tutte le sue location più prestigiose, praticamente il Palazzo del Bo, il Palazzo Liviano, Teatro Ruzzante, Palazzo della Ragione, Palazzo Moroni, nelle librerie cittadine e nelle scuole. Quindi per accogliere tutta questa marea, diciamo, di invitati importanti. La Fiera della Parola quindi è sbarcata a Padova ed è stata ideata e diretta da Bruna Coscia, organizzata dall'Associazione Culturale Cuore di Carta, con l'Università degli Studi di Padova, il Comune e con la collaborazione di Acegas APS, che ed è il risultato di decenni di lavoro nell'organizzazione di eventi culturali che hanno portato in Veneto i più autorevoli personaggi del panorama artistico e culturale italiano. Quindi, dopo le prime positive esperienze, quest'anno, diciamo, Padova ha trovato effettivamente un motivo in più per diventare, come dire, un polo culturale attrattivo, una grandissima opportunità per il Nord-Est. Avere un festival culturale e letterario in grado di competere con altre realtà territoriali vicine che hanno cresciuto e consolidato la loro importanza proprio grazie a format festivalieri di successo. Vediamo, che so, Mantova naturalmente, Festival della Letteratura, vediamo Sarzana col Festival della Mente, vediamo altri, dell'Economia a Trento, eccetera eccetera, e questo significa che c'è un'effervescenza straordinaria e che noi, come posso dire, se abbiamo motivi così di rammarico per altre vicende eccetera, almeno dire, la cultura ci, la cultura ci, è quella che ci, ci salverà, ci salverà, la cultura è quella che ci salverà. Quindi quest'anno è stato il primo anno, il primo di anno festival. A Padova ha avuto un successo clamoroso, naturalmente. Speriamo che continui. Sì, sì, io ritengo che sia un qualcosa, è che occorrerebbe praticamente farsi un percorso, diciamo, di tutte queste cose che fortificano e rafforzano la mente. È uno stimolo straordinario. Sarebbe bello assistere anche a uno di questi festival, anche mi piacerebbe conto. Molto per esempio quello della mente di Sarzana, a me piacerebbe in modo particolare. Arriva, che so, anche a Padova e anche ad altre parti, c'è stato Odi Freddi, ci sono da, mi pare, premi Nobel per l'economia a Trento, che chiamano l'economia la scienza triste, in realtà assolutamente una cosa triste, sbagliata, sì. Non c'è, sono tutte convenzioni, sono tutte cose, come dire, dei preconcetti, dei pregiudizi dei quali dovremmo, se vogliamo progredire, liberarcene al più presto. Ma sai che liberarsi dei pregiudizi non è tanto certo, facile. Certo, non è vero? Semplice, occorre, ecco, però prestare attenzione e farlo, secondo me, è fondamentale. Poter partecipare a tutte queste manifestazioni, almeno una volta. Perché, almeno una volta, sì. Perché almeno ci si renderebbe conto di tante di che cosa c'è in giro per il mondo, effettivamente. Perché altrimenti siamo chiusi nel nostro particolare, nella televisione, volenti o nolenti. E basta. Vabbè. Esatto. Comunque, anche stasera abbiamo terminato la nostra trasmissione, sperando appunto che abbiate gradito, evidentemente. Di aver detto qualcosa di interessante, no? Certamente. Ecco, di nuovo ringraziamo anche intanto ringrazio te, Antonio, e ringraziamo ancora il nostro Vittorio. Certamente. Gli ingegneri. E in particolare ringraziamo i nostri ascoltatori e le ascoltatrici in particolare. E anche ringraziamo il nostro regista, col quale tu ed io diamo la buonanotte. Buonanotte. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.